visto che se andava ai paramo e ha detto che a me non mi era dire che mi rifumavo. Sì. Sì. E bisogna andarci, ci andiamo a sparare. Aiuto, ci organizza, là, andiamo. Aiuto. Va bene, sto uscendo, sì. Io sto uscendo bene. E dov'è che vai? Ah, si può andare dalle parti di Usini. Dalle parti di Usini. Però passando da cosa? Da Molaffa. Esatto. E lì chiedo qualche amico anche in zona. Vai, sono andato a provare. Non sono ancora usciti, sono piccoli piccoli, capito? Ma in campagna da te. Non ce n'è ancora già. Abbiamo fatto un paio di tanche, ma no. Sono piccoli, stanno appena uscendo, capito? Con questo freddo non assalgo. Come c'è un po' di sole, non vedo. Un altro magari mia, la prossima metà della prossima settimana, forse c'è qualcosa. A me non è che mi piacciono tanto, non è che ci vada matto, è la verità, ma c'è gente che mi piace un bel. No. Dove l'aspettate? Ma quando rimangi spesso ti stufano anche quelli, capito? Qui se mi dai calamari non mi stufa. Eh beh. Ma freschi? E allora, sì. Calamari freschi. Prima quello di giù della pizzeria li faceva, poi non ne hanno più portato e ha detto che non rischia a farne altri perché poi magari fa dei clienti, capito? Perché magari sono lui, invece questi che portava, a parte che ne portava un bel po', ed erano buoni veramente, croccanti, non erano cingombosi. Ma cosa è tutta una buona? Cristian, dove sei? Pesanieta, vero film, quello di Sofia Maurizio. Cristian, dove sei? Di Manetta. Dove? La veloce. Tic, ti arrivi più o più, ma basso arrivi, bassissimo. Ma basta stai arrivando già? A me sei 9:10. Ma sei, allora sta parlando, stai ricoglionendo, vai, giusto? Ah, vabbè, vuol dire che sei una negativa per me, ma arrivi bassissimo. Gianni ce l'ha di fronte la teloce, anche Franco. Natalia, tu lo senti a Cristian? Basso, basso. Cazzo, lo vedi? Natalia abbiamo più o meno la stessa posizione, non è che siamo assai lontano. Io sono di dietro la CRAI. Ma tu adesso, Luca, dove sei? A casa tu? Non si sente dal microfono. Sono a casa. Capo. Ebbene, l'avete fatto quel lavoro, no? Lavoro di che cosa? Regolare stazionale. Adesso già questi giorni ho fatto qualche salire uno di quelli. Però adesso, anche stamattina volendo. Tanto già ce la faccio anche da solo, piano piano, ma la sollevo. Poi scendo giù un attimo, controllo. Già avevo sbullo la zona, ho bisogno di assi in 40. Va bene, dai, perché riesco a buttarla giù da solo, capito? Adesso le palle te le scoppi, come c'è prima, insomma, un po' difficile mi veniva. Ma non doveva venire con lo strumento? Boh, non so quando viene già. Scusa, mi ha detto che stava difettando anche lo strumento. Capito. E allora niente. Vabbè, dai. Comunque. Positivo, camarò di prete, che beh, vita mia, che beh. Attenzione, prego California, vita mia, che beh. Ciao Luca, quando tu ti dico come fai 7 cm e non sbagli, capito? Sì, infatti, poi se è 7,1 già è uguale lo stesso. Va bene, va bene. Tanto quelle antenne 1,1, 1,2 danno stazionarie, capito? E infatti, se lui la regola 1,1, 1,2, nell'uno poi ce li ha in tutti quanti i canali, ce li ha così. Se invece è basso nell'uno, poi gli altri canali alta. Io ho dall'1 al 40 1,1 le stazionarie. No, io ho qua quasi non si muove, ti dico la verità, non si muove quasi. Poi arriva 1,1 sino al 25 così e poi va a 1,2. Sì, già va bene, non fa niente. L'importante è non arrivare più di 2. No, 1,2 è giusto. Ci sono antenne che sono tarate a 1,2. Ma infatti lavorano così, 1,1, 1,2, capito? Ma tutte le antenne, No, quella che devi piazzare tu non si muove manco l'ago. O vedrai tutti i canali così. Lo so perché l'ho già provato, l'ho messa fuori dalla finestra, capito? L'ho messa coricata, addirittura le stazionarie non ce n'erano niente. Ho detto, per quello già è buona, il problema è fare un bel rinforzo. E non ti preoccupare, quando la piazzo vedi cosa rifaccio io. Voglio vedere. Ma penso che non si rompa più, qua, te lo dico io. Ma sta a mettere l'ultimo appena che riempirlo e poi tirare nel spazio, lo vedi se si muove. Blecco. Papà. Papà, buonasera a tutti. Buonasera. Avanti Massimiliano. Ehi, buonasera, ciao a tutti. Ciao Massimiliano. Sempre per i bidoni, sì. No, sono un po' ragliato, sto schiacciando la portante col piede. Vai, si è fatto un continentale. Ha detto buonasera. Kappa, ciao Gianni. Ho sentito che c'è California, poi non so chi c'è ancora. C'è California, Natalino e coso, e Cristian in macchina e Luca Manicone. Ciao Massimilia. Ciao Natali, buonasera, ben ascoltato. No, sono squelciato già perché in poche parole ho un problema di QRM qua, da. E c'ho il vicino che ha un macchinario collegato. Non so se è roba di ossigeno o cosa del genere, quindi mi porta QRM a 7. E allora ho messo lo squelci, da. Sento solo quelli oltre i 7, da. A me mi senti? Sì, Lu, prova. Prova un po'. Ha aumentato il segnale, prima di 9 pieno, adesso sei 9.10. E anche tu c'è un picco di modulazione allucinante, da 9, quasi 9.20 mi arrivi. Perché questa la radio fa con i watt tutti chiusi, fa 2 watt, c'ha 30 watt modulati. Comunque stazionarie qua per il momento 1 e 2, dai. Devo fare sempre quel famoso lavoro, quando sarà? C'è la vinepresa, qui il tempo, una bella giornata che non c'è, come si dice, e sono le tegole asciutte, salgo e me la sistemo per bene, dai. Per il momento tutto l'ho fatto, ok, avanti. A Natalino non lo senti, no? A chi? A Natalino non lo senti. Sì, l'ho sentito e l'ho salutato anche. Salutato anche a California, poi non so se c'è ancora qualche altro. Ciao Massimiliano. E salutato Cristian, perché qua arrivo abbasso da me. Sì, pure io ho notato una cosa Massimiliano, cioè prima il QRM mio era sempre bello, zero. Adesso come ho sistemato, se ha più ricezione, ce l'ho quasi a 3. Va bene. No, ho aumentato molto il segnale, va bene. Ok, riprendi Franco. Avendo più ricezione Luca, prendo anche più QRM, normale. E beh Massimiliano, come va questo microfono? Già, cosa stai usando? Perché già lo sai, io sono un po' fuori dal giro, quindi non so. La radio, il bip ho sentito che è il serpente, però non so cosa stai usando di microfono. Allora, la radio è un Cobra, non so se tu lo conosci, e il microfono è un microfono alto costruito. Sì, va bene, molto forte la radio, un bel segnale, no? Quasi a 30. La radio è bellissima. Sì, il bip l'ho sentito già, è un Cobra. Ciao Massimiliano, buonasera. Ciao Fra, questa è già la terza volta che ti saluto. Ciao Fra. Perché mi erano allontanato, c'era il caffè nel fuoco, è tutto lì. Cara Gava, va bene. Sì, buono. Avanti Natali, anche a te ti ascolto benissimo. Zitto tu. C'è il cane che sta rompendo le scatole. Sta sbagliando perché gli hai fatto fumare gli asparagi pure a lui, perché non lo so, infatti ciccare, ne fatti. Cappa, ma allora dimmi una cosa, ma che strumento ti serve per regolare questa stazionale? Non ha già compreso. Ah vabbè, è quello strumento che tu attacchi all'antenna, se non mi ricordo come si chiama, ce l'ha un amico. E ti non stai lì, sali, scendi. Lui ti dà lo strumento in mano, mi dice, solleva e fa una cosa un po' veloce, capito? E vabbè, non me lo posso io, dai, ci metto, salgo su un attimino con il metro, me la porto a 7, boh, la blocco, me ne scendo, la faccio la prova, se è a posto, la risollevo come la prima, me ne vado, boh, finito. Infatti, vabbè, tu stai dicendo l'analizzatore di antenna, così è. Sì, l'analizzatore, bravo, l'analizzatore, l'analizzatore di spettro si chiama, boh. Io ho capito, ma va bene anche in due lì, uno sul tetto, uno dentro casa, due radioline, solleva, alza, bim bum bam, è tutto fatto. Infatti, certo, farò così, dai. Oppure anche col cellulare. Ma infatti anche il cellulare, non c'è bisogno di radiolina, hai ragione. Uno strumento buono che ti segna le stazionarie, ebbene. Il SX200 è abbastanza buono come cosa, come si dice? Come l'osmetro. sì, vanno bene, Lu, vanno bene, a voglia. Però io ti dico, se tu nel canale 45 hai 1 e 5 di stazionarie e nel canale 5 normale hai 1 e 1, la spirale vuole abbassato. Allora, ho capito, scusa, se? Allora, tu metti sul canale 5 normale, no? E c'hai 1 e 1, giusto? Nei canali normali hai 1 e 1? Sì, sì. Ok, tu vai nel 45, mi hai detto che hai 1 e 5 o di più? 1 e 7. Oh, allora c'è la spirale che è troppo alto, vuole abbassato la spirale. Ma adesso ti dico più o meno, segui, sì, aspetta, adesso lo attacco un attimo di bianco, riprendi Gianni. Ehi, c'è anche Cristian in parcheggio, Cristian avanti. Mi sto aspettando che mi chiamassi anche voi, dai. Ciao Massimiliano, se mi senti. E allora Massimiliano, abbandonato tutto qui. Buon Natalino. Uia. Ripetitela. Stavo mangiando, ora. Allora mangia, mangia, avanti. Allora, aspetta. Perché qua devo attaccare la lampadina, allora. Qua mi fa la tarattura. Aspetta. Io sto qua. Ok. Allora, se fisco il sacco, no, 1 e 3. E vabbè, le stazionarie non vogliono fate fischiando. Tu schiacci, la portante multa, e poi vabbè, non devono salire così. Comunque, prova adesso nello stesso canale, vattene ai canali di su, vediamo un po' quanto ti sale. Ok. Che già, se lui c'ha stazionari nei canali alti, vuol dire la spirale è troppo tirato su, vuole abbassato, capito? Allora, i canali di su, praticamente quasi due. Fate un conto. Vuole abbassato lui quella spirale? Vabbè, vai il segno, Milù. Se dove c'era il segno della spirale è buono, la metti sul segno, non sbaglio. Segno... mi sa che il segno non si vede più perché era tutta pulita. Quella parte bassa lì, Fabrizio, era tutta pulita, che era... come c'era la fascetta che non era in acciaio, ma era tutta stramacchiata, ecco, diciamo così. Ma quella parte lì non l'avete cambiata dove c'era il segno della spirale? No, no. Allora, così Massimilia, la portante muta, 1 e 1. Va bene. Prova la portante muta nei canali alti. L'ho detto, 1 e 7. La portante muta, lui si sta a parlare. Se parlo salgo da 2. Sì, fate un conto. Sì, si vuole... vuole abbassato la spirale, là. Via, andava, da, comunque. Allora, vediamo un po', watt. Allora, watt sta dando, là. 5 watt. No, la mia, la spirale non si deve né abbassare né alzare. C'è una specie di rondella piena che si muove avanti e indietro e regola così. Ma ho capito, allora, ho capito questa funzione, AVG e PEP. Allora, così i watt mi salgono in AVG. Oh là, 10 watt, 12 watt. E invece in PEP 5 watt. In PEP sono i watt, il picco massimo che sta erogando la radio, capito? Ah ecco, invece in AVG? In AVG sono i watt reali che sta dando la radio. Allora sta dando, oh là, 10 watt. In PEP quanto dà? 5. No, allora è il contrario. Lo può dare in PEP 10 watt, cioè 5 watt, e in AVG 10 watt, lo passo io. Allora, così sono portante muta 3 watt, poi lo vado a modulare perché sono in scala a 20, in scala a 20, sì, 5 watt, hola, hola, 5 watt, poi se lo metto in AVG salgono a 10. No, guarda che tu stai usando il pulsante al contrario. Sicuramente il pulsante al contrario, capito? Scusa adesso, così aperto cos'è? No? Se lo spingo dentro cos'è? PEP o una AVG? Quando tu moduli, no? Che la radio dà tutti i watt, così è in PEP. Quando tu invece schiacci che vai a modulare, che non sale più del tanto, quello lì è la AVG. Adesso non mi ricordo, quello mi sembra che sia in quando tu schiacci il pulsante è AVG, quando lo togli fuori è in PEP. Sì, Ma eh sì, perché sotto c'è il WP. Aspetta che non lo vedo, un cazzo molto chiaro, non vedo più una mazza. Allora. Allora, no, è vero, no, ma simile, schiacciato in PP. Invece uscì quando è fuori così e non fuggì. Capito? Già ho capito, già ho capito, sì, sì. KK, avanti Franco. Sto facendo alcune cosette col computer, dai, vi saluto, ciao Massimiliano, ciao Gianni, ciao Cristian, ciao anche a Natalino. Dai, ci aggiorniamo alla prossima, ciao a tutti, dai. Finisco di fare questa cosa al computer che sono incasinato. Ciao, ciao Fra, ci sentiamo. Avanti Natalino. Ciao Fra, alle prossime. Fatti senti. Oh yeah. Avanti già. Aspetta Massimiliano, salutare. Ciao Fra, buona serata e buon divertimento, dai, ne approfitto anche io che mi devo allontanare, dai, devo scendere giù, quindi mi devo allontanare dalla radio. Ci sentiamo, ciao a tutti, buona serata e buon divertimento, ciao. Ciao, ciao. No, ci sentiamo Massimiliano. Avanti. Cristian. Io non lo sento a Cristian. Ciao Massimiliano, buon proseguo, buon tutto. E anche io adesso non lo sento a casa, deve essere chiuso. E fa poco che io anche perché devo portare il cane giù. Io poco fa mi stavo pulendo la sigaretta elettronica. A chi me lo voglio dare, Vizio. Ascolta, ma non è che si fuma di più sigarette per la sigaretta elettronica. No, no. Sì, come c'è? Ah, io le bugie. No, già, gli ho fatto gli asparagi, se siccate si sta fumando gli asparagi. Io non è cuoco né come te mi a fumarsi gli asparagi, mio cane, hai capito bello bene? Hai capito, Natalino, è più cuoco nella frequenza. Cappa. Sì, vabbè, Natalino, ma anche quella sigaretta lì non è nociva, lo sa. Non è di quelle con liquido. La Giubagata ha una barca di soldi. E com'è questa qua? Non la conosco allora, io c'avevo quella che ci metteva di qui dov'è. C'è una sigarettina piccolina, però non te la consuma, ti va un paio di dì, la poi si chiuda e devi mollare. Se ne va se basta fuori la gana. E poi ti fa odiare anche, perché c'è un sapore strano, ti fa odiare le sigarette normali. Ma farmacia l'ho presa? No, al tabacchino l'ho presa, quello di sotto a casa. C'ha un caricatore che si carica e una cosa diversa è da quella. Ce l'ho anch'io quella liquida, ma non ne ho fumato, ce l'ho mica quella liquida. Mi ha pillato te, va diglielo, ce l'ha. No, io ho usato quella con liquido, però poi un giorno me l'ho dimenticata a letto, mi sono girato e l'ho crepata. Ho preso sta girando un che non ha giù toccato le sigarette. E va tu bene. No, io lo stesso, devo, perché a me mi sta rovinando, già sono messo male, se fumo pure guai. Pagato dopo della giudizio io. Già lo so perché io non lo sapevo che fa male la sigaretta. Ma non facevi nulla per smettere. Perché me ne fregavo. A chi di biologia fuma? Anche a me mi attirava, mi andavo a peccare, lanciavo e mi accendevo la sigaretta, arrivato alla fine della nottata, due pacchetti le partivo. No, io non me le ho mai fumate così molto. E quando andavo a pescare sì, quando andavo a pescare sono partito da 5, poi 10, poi 15, poi 20 e da poi due pacchetti, alla fine ho detto basta, ho fatto un taglio di colpo. Ho preso, mi è venuta una cosa, stavo pescando vicino al tabacchino che c'è quello della torretta lì. E adesso salgo a prendermelo, poi dicevo no, non devo vincere, alla fine ho vinto il salato, l'ho comprato, me ne ho fumato una, quindi è tutto strappato, ce l'ho buttato in via. E anche io avevo smesso di colpo, quando ho avuto l'infarto, sono stato 8 mesi che non ne toccavo. E lì dovevi continuare, una volta che ce l'hai fatto 8 mesi è già buono, io sono 10 anni più che non fumo. A me una volta al mese mi veniva la voglia, proprio voglia di fumare, però non fumavo, 8 mesi sono stato. E a chi non è venuta la voglia? Anche a me veniva, quando specialmente si accendeva la sigaretta davanti a me, gli gli amici, lavora la sigaretta, no, no, non è voluto, pigliala uno, una volta mi hanno fregato, non mi fregano più. Così è, mica, quando pigli la sigaretta, poi di butti. Già lo so. Non cresca. Fa male si fumare, altro che fa molto male, molto male. Ehi, vabbè, da. C'è molta gente che non ce la fa a smettere, così. È un casino, ma io grazie a Dio sono buono. No, prendo di più. Se ne ricordi quando ti alzavi col dolore intercostale? Sì, no, per carità. Cattarro io, grazie, mamma mia, il cattarro che ci avevo la mattina, oh, che schifo, fumavo sigarette buone, io fumavo multifilter, Campbell, fumavo, non ne fumavo MS o altra roba del genere, fumavo Campbell e multifilter, boh. Io fumavo di Diana Blu, poi vabbè, Marlboro Light, Marlboro Medium, poi le Campbell, quelle blu, anche fumavo sigarette buone. Ciao Pedro, Marlboro Light, cazzo, come si chiamano quelle? Anche io gli ho fumato le Marlboro Light, però non mi piaceva, era troppo aria condizionata, non si intendeva nulla, invece le camere erano buone, le camere e anche le multifitter erano leggere, però sentivi la tirata, ed erano lunghe, la sigaretta ti durava un bel. Già lo so, vabbè, ma poi ultimamente lo sentivo un saporaccio, guarda. Era questa cosa, un saporaccio, brutto, brutto, no, no, ho detto un po', proprio di botto, mi. Diciamo che il primo mese sono stato un po' male, comunque, alla fine poi già mi è passato. E ti posso dire che mi ha dato un bel di fastidio, ma un bel mi. Rosso. A me vi dà fastidio lo stesso, se fumano in casa, se fumano davanti a me, vi dà fastidio. In casa io non ho più fumato, perché la compagna non fuma né niente. Quindi non fumo io, non fuma lei. Mi dà fastidio se sento l'odore. Quindi da me, per carità, va. Lui mi lascia perdere. Farsi male, boh. Via. No, non fa per me già, non fa per il mio corpo. A mangiare sì, vedi, quello è un problema. Mangiare pure io, devo stare attento, anche se sono di buona forchetta, anch'io. Mi piacciono le cose dolci, adesso per dire, sono andato da Cesaraccio l'altro giorno a comprare il pane. Anzi c'era una vetrina di pasti, di frittelle, ma lì c'erano certe pesche enormi, cazzo, belle, rosse rosse, frittelle a volontà, dolcini, e le frittelle che le stavano appena mettendo. E noi trovavamo due giri di quelle frittelle e le ho prese. Non posso stare a baitarmi là di chi mangia di che cosa, però mi viene per la tentazione. E l'ho portato a casa, un pezzettino l'ho mangiato, non che ce l'ha mangiato bene, ma però intanto un pezzo me l'ho mangiato. E io l'anno scorso che ho fatto, mi sono uscito di questi bebè di grossi, cazzo, tu dovevi vedere ogni abrigione di chi si ronghi, mi. Le ho fatte, gatta, e mi sono... l'anno scorso però le ho fatte, che non era, quest'anno non ha giovato, ma male so. Ma tali, queste qua le frittelle erano belle grosse, la pasta buona, e in più si sentiva sapore dell'alice come le faceva mamma, erano proprio buone. E anch'io le ho fatte l'anno scorso così, ti sto dicendo, mi sono usciti così buoni. È solo che adesso sono diabetico, cosa mi pongo a fare i prigioni? Concetta gli arivuria, ia. Ma io se ti dico, meglio visto che sei tu malato, un pezzo non puoi assaggiare, non è che devi stare con la gara di mangiare. Già lo so, ma è meglio evitare, già. Male, mille compiuti. Io le volevo comprare, solo che non ne aveva domenica. Di frittelle le dovevano portare e allora non gliele ho preso, se no gliele prendevo domenica. Poi domani mattina la Cesara c'è a Fontanetta, dove c'è Oppoli con la zona lì. Le prende la Cesara ci sono appena fatte, a me me la fa calda addirittura. E a che salzina il ciclo continuo sempre andando e fendi in Chivi? E c'è una vetrina lunghissima, tutta piena di dolci, tutta piena di dolci. fare una vetrina lunghissima, tutta piena di pasticcini, di paste, di frittelle con la crema, tutta la cosa che piace a me, come una volta nel Trebitte, lo ricordi? Quando siamo andati a prenderci il caffè. Ah, sentivi, veniva la bancada, veniva. Non le bigliacche, sei diabetico, tu. Questa qua è una tentazione, è proprio una sfida diabetici. Infatti, quella è una sfida, Bruce. Anche da voi, tu diabetico, la tira di più. E allora, è come il tossico, no? Quando smette di farsi. E poi vedo la droga davanti, non vi la faccio resistere. Già risolvo io, mamma mia. Dopo Natalio, dici, ma c'è fatto, adesso mi seguo diabetico, mi piace di duccia, ti immaginerei? Mamma li comprava, sì, ma le feste, non è che era una cosa di più, come certi che la domenica compravo sempre le paste, eccetera. Non era di più così. Se comprava, sì, alle feste, magari comprava, cosa ti posso dire, papassini, il periodo dei papassini, poi... qualche frittelle, le frittelle già le faceva mamma, ma le fazia a sculaccioni, me le faceva lì, la pasta la lavorava a sculaccioni, infatti dicevo sfogati, sfogati, così non tocchi a me. Sì. Ah, Concetta, meno male, già ieri l'anno mi ha dato riprese di Ronghi, di Babassini, della zia, mi ha detto li dati. Ma io adesso non le toccano, balle zoni. Quando il vitale li metteva una di chi si manti, di chi si pisanti, per evitare, e ne faceva un lavamano, ma di chi di mani proprio belli ambrosi, ne faceva un poco con un cucchiaio e un poco con l'imbuto, con quel cucchiaio faceva le forme degli animali, eccetera, e invece con l'imbuto le faceva rotonde, no, come si fa? A me mi piacciono di castagnoli, mi piacciono quelle frittelle piccoline piccoline piene di crema, quelle lì mi piacevano. E già piace di pure a me, chissi, già c'è poco buono. Niente, comunque sono solo ricordi, quelli a chiamare ne potevo buttare, giusto gustare adesso anche qualche cioccolatino ogni tanto, mamma mia, gara, a me mi piace di un bello, prima non le cercavo, te ne immagini, adesso mi viene, forse perché c'è proibito, allora ti viene più la voglia, capito? Avanti, Lucrezia! Quel Luca se le fuma, quelle lunghe. Luca... Luca, va... Si fa di dosi, di tutto quanto, ma ne mangia un po' di dosi. Ogni tanto le mette su Facebook, mi? Oggi mangiamo dolci, vai, troppe... di tutti i tipi, eccetera. Lui già si dà di lavare. Già lo so. Io l'anno passato mi ha giocato un lavamano, di chi si tanto mi ha giocato. E mi ha regalato un bel concetto di chi si fece i roghi. Mi sono occupato con un sacchetto, tanto mi ha giocato. Mia bello, mamma le faceva con quella di sotto, con la signora che abitava sotto, era una amica, faceva tutti insieme, le facevano un lavamano un anno e poi se li dividevano, no? Però qualche volta le facevano anche di ricotta, ma mi piacevano più quelle normali. Che cosa? Le frittelle di ricotta faceva anche. Ah, cappa, no. A me mi piacciono le ricottelle, mie. Cazzo, quelle lì già mi piacciono. E mi piacciono più delle formelle. Cappa, anch'io già me le mangio, già mi piacciono pure a me. Io le mangiavo caldo, perché lei ce le portava il pasticcere la mattina. E io prima di entrare dentro una me la mangiavo. E infatti, solo che se mi lascia a pinocchi me le mangio tutti. Meglio no, che non vinisiani. E quindi tu dolci non sta più toccando niente, Natalia? Chi se no matta la glicemia. Se tocco di dolci sono arrovinato. Lo so, che fai? Vabbè, io mi regolo curiosità, ma invece fammene 12, me ne faccio 22 per dire, e mi mangio i dolci. No, no, poi io sto pigliando la pastiglia, non ne sto pigliando più insulina, solo quella della notte faccio il buco. Ma perché qui ce l'ha la penna appena, tu lo sai cosa è il fatto che tua madre era così, era diabetica, eri predisposta anche tu? E mia madre, mia nonna, mio nonno, tutti diabetici erano. E allora stavo attento, io ne toglievo anche la mollica dal pane e ne la tolgo sempre, tuttora. Mi mangio solo la crosta. Quindi quando io mi mangio mezzo banino, non mi rimangio mai mezzo banino, ma cosa ne cavo tutta la roba da Trento che non mi piace, la mollicca. E la tolgo io. Io la sai cosa sto mangiando a pranzo, anche se non mi piace, anche non mi posso infundire un bane, mi mangio un pacco di cracker di quelli integrali. A pranzo è un pacco a cena. Boh, basta. Non è tocco di pane, ma mi ha fatto la matessa, a volte ce l'ho a 84, a 82, e a volte ce l'ho a 270, a 280, e ballerina la mia, sale lo stesso anche se non mangi nulla a sala. Poi la pizza non la posso tutta a tutti, la pizza me la fa salire a gogo. Allora già, io di solito ogni tanto me la misuro, no, la mia è perfetta, 100, 101, e siccome viene questa assistente per mamma a casa, no, che aiuta a lavarsi tutto quanto, fa, come posso misurarmela lui? Misuratela, lo 118 ce l'aveva, poi se l'ha misurata stamattina, che ieri da qua, no, stamattina a digiuno 185, se non è diabetica. Ma chi la fa? Come? Chi è che ce l'ha misurata? L'assistente? Eia, l'assistente che viene qua a casa, sì. Allora diabetica sì, se c'era 200 passa è diabetica, perché il massimo è 120, nemmeno più, perché adesso ha diminuito, adesso non è più 120, mi pare che sia 100, è il massimo che la può avere, se no è diabetica, se c'era 200 passa è diabetica sicuro. 180 stamattina, ieri 220, praticamente ha fatto colazione alle 8, poi qua si è preso il caffè a casa mia, sono misurata 220. Tu è diabetica, massimo 118 la devi avere per sé. A me mi ha detto che bisogno di insulina non ne ha, e sono figlio di una pastiglia di caraccia. Solo la notte la faccio insulina con la lessa. Quante palate in due? Ho detto che la deve avere al massimo 118 per essere normale, non di più, perché sennò è diabetica, quella lì è diabetica e lui. Ah, io una volta ho avuto lo smalzo a 150, mi basta, 145, questo è stabile, come mai? Avrei mangiato un po' di dolce, roba zuccherata e ti è salita nel momento e basta, ma se è momentanea la cosa, solo che tu si deve abbassare e non è che può stare così. Sì, però, come si dice, c'è da dire che no, non ho mangiato roba dolce, solo colazione l'avevo fatta e basta. Praticamente mi sono fatto la doccia, mi sentivo strano, ma è strano già, strano, sai, non mi sentivo bene. Mi misuro la glicemia ed era un po' altina. Cosa adesso? Poi l'ho rimisurata, ce l'avevo bassa bassa. Se ti sei abbassata da sola, naturalmente, stavo spiegando questo, che si misura 2 ore dopo il pasto. Se tu la misuri prima, il pancreas non ha ancora prodotto l'insulina per assorbire i zuccheri grassi, capito? È quello, devi aspettare 2 ore prima di farlo. Solo che a me mi sale, mi scende così, anche senza mangiare roba. La pizza non la posso mangiare, arriva a 370, 340. Se mangio una pizza, oi! Ma proprio su questo, ecco, mamma mia, vedi che cazzo, e fa scendi tutto, mi si abbassa un po'. Guarda questo, va bene. Oh, io non odio, ma sono iniziato a odiare l'eco, ci credi? Capito. Bisogna aspettare 2 ore sempre prima di misurarla. Vabbè, comunque è una brutta bestia. Cerca di non prendertela perché è una brutta bestia lui. Tu sei predisposto, perché tua madre c'ha il diabete, quindi sei predisposto ad averlo. Ce la potrà avere fra 10 anni, è meglio che ce l'abbia fra 20 anni piuttosto che averla adesso. Ah, lo sai, ieri che ho mangiato la pizza quanto me l'ha fatta salire già. Eh? Mi ho mangiato una di quelle pizze 4 stagioni, di quelle baby però, di quelle piccole, no? E mi è salita 142. 2 ore dopo cena. Ma sto parlando di una pizza normale, una pizza o due pizze, noi prendiamo o due pizze al taglio, che a me piacciono tanto, oppure le pizze normali, sia l'una che l'altra, a me me la faceva stare stette, all'impicco brutto. Ma la tua è più grave della mia, già, tu ce l'hai tanti anni. Io ce l'ho appena appena questo diabete, proprio a chi ha già avuto la pancreatite. Da quando ha già avuto la pancreatite mi è giunta l'insulina e il diabete mi è venuto. Me l'hanno scoperto all'ospedale a me. Beh, proprio il pancreas che produce l'insulina, quindi è interessato il pancreas. Con la pancreatite hanno infiammazione al pancreas, quindi tu ti puoi immaginare, è proprio interessato a quell'organo lì. Vabbè, dai, vi saluto che vado a portare il cane che si è fatto già tardi. Non mi hanno ancora chiamato, ma mi sa che è già ora di andare. Vabbè, ci sentiamo ragazzi, statevi bene, grazie per il consiglio e tante cose belle. Altrettanto già, buon proseguo, alle prossime, là. Avanti Luca. Ciao già, ciao, alla prossima. Sicuramente quella ragazza è diabetica, vabbè. Non vedrà lì cosa fare. Tra un po' vado anch'io, faccio una bella zuppetta di latte, che non lascia mai nulla, sto cazzo di punti, guarda. Già passa Burudisso, giù Luca. Oh signore, è diabetica si sì, sabizzina, si la fa così, è diabetica pure grave, come te già ne sa di sì. Perché lei dice la mattina fa colazione con la pasta e il cappuccino, siccome gli piace anche il caffè molto zuccherato, infatti ho detto evita la pasta la mattina, mi metti un cappuccino magari con lo zucchero quello... Come sta male, così c'è quello... Adesso non mi ricordo, vabbè, con dolcificante. E anche io se mangio il bigliaro caffè me lo biglio con dolcificante, oppure senza nulla. Vabbè Luca, là, ti saluto, ci sentiamo alle prossime, che anch'io me la chiudo. Ci aggiorniamo alle prossime, là. Eia, ciao, buona cena, alla prossima, ciao. È appena rientrato, mi ora mangio e sto arrivando. E anche io vado a mangiare, dai, faccio qualcosa da mangiare e ci sentiamo dopo, gabba. Adesso vado a casa. Cappa, tutto un acqua questo cazzo di rosmetro, beh, per carità. Come funziona in divè quasi? Tanto guarda, tu prendi senza spendere molto il Diamond SX200, non sbagli. È bello, guarda, è bellino come cosa. Non è proprio professionale, ma va bene come rosmetro. Rosmetro, wattmetro. Cappa cappa. Ma con il rosmetro e manca l'antenna, due zorigosi. Ora esce che scendo giù a mangiare, va. Cappa cappa. La foto se lo conosci, boh. Questo l'ho comprato nuovo, l'ho pagato 95, mi pare. Mi pare, bisogna pigliare una roba del genere. A me piace quella da che incrociati. Vabbè, quello costa di più, ma guarda, vanno bene, a voglia. Cappa cappa. Ok, da, adesso vado, mi mangio qualcosa. Non lo fare, Anto, non lo fare. Ciao Luca. Ciao Muccolo. Beh, andiamo via la scimmia indietro. Parcheggiatalo. Andiamo e andiamo, certo. Quanto arriva con questo Luca da te? Guarda un pochino. Cazzo, 9, quasi 9,20, sì. Ma vai, Anto, e tu? Questo è 4 watt, puliti pulitimi. Adesso ti faccio la foto, da. Come dire, a base non mi piace, aspetta, mando la foto, adesso ti mando il video, boh. No, già ci credo, ma voglio dire, 4 watt, boh. Mi fa un passaggio un attimo, dai, vai. Non ho neanche il telefono, ce l'ho in carica, vabbè, dai, vedi un pochino, così almeno sento anche la voce, dai, fammi il video. Antonio, fa la cortesia, tu invece come mi ricevi? Vai, parla Tino. Vabbè, parlo, volevo sapere Antonio come mi riceveva anche lui. E questo è un Intech 4 watt. Va bene, va bene così. Ti ho fatto il video. Ti ho fatto l'UV, tu bene mi ascolti, sì? Sì, qua è 9-10, ma gli Smith sono come quelli del 48, l'Intec normale, dai. Eia. Allora già va bene, dai. Già va bene, allora ci vediamo un po'. E mi faccio un vammi, cioè no, a fa, mi posso sapere da zuppetta, va, non giugarla, poi non riesco a mangiare nulla, vedi, cazzo, gli davanti di balle. Devo aspettare, no, questo giovedì che viene all'altro, il dentista, dopo che ne bucano i punti, un casino, boh. Ah, beh, allora, se c'è punti, sì, sono d'accordo, e vabbè, roba, oh, io già, quando mi avevano messo i punti, mi avevano messo 4, perché mi hanno tolto il giudizio e l'altro, quello che c'era a fianco, tutti e due me ne hanno tolto. Claudio, se stai ascoltando, alla GBT, mi sembra quella volta a superare Claudio, Natali. Eia. Vabbè, viene male, ti viene male. Viene male, male. Poi praticamente nel palazzo lì mi ha messo i punti. E sono praticamente, cioè come si dice, sono... come mai, tipo, non esempio, ti mangio un'arancia, no? Mi pizzica. E sono irritato. Ci credo, vabbè. Già passa subito comunque, dai. Sì, yeah, speriamo bene. Dai, ci sei dopo, ti vado a farmi una zuppetta, dopo. Sì, yeah, tranquillo, dai, anche io, anche Rix, ciao. Andiamo, vai, andiamo, cacca. Andiamo, babbo ricetta. È bello. Come tanto, dai. Tu già mangiato? Ehi, ha già mangiato. Ciao. Ma qui in presa. Un attimo, mi controllo la... Che devo fare colazioni? Colazione? Hola, chicos. Attenzione 10K! Ora! Ora! Attenzione KK! Nuda. E se boh un paciam per segalo, c'è che c'ho. Che si chiama? Si è alimentato ora. Umane che robosa. Oh! Ora! Chicos! Niente lui proprio mi dà delle grandi soddisfazioni, ti credo, e te credo, e adesso lo compro pure io. Papà, no, guarda, se te lo dati che c'è bassona non te ne date di così, quello lì te lo dà buono, non te ne dà roba strana, non ti preoccupare lui. Zitta, vi detto, ma non ha volta, Ehi, guarda questo qua, 748 questo qua. Sì, sì. Con due farfalle. Lui! Comunque già, adesso mi, quello là lo uso qualche volta, gandaggio di Bumpa, forse, questo qua lo uso ogni tanto, capito, cioè questo qua lo uso sempre, quello che uso frequente. E chi sono pompa, non te valvole, che ti sono pompa? Amo un buon cazzo e l'attacco. Positivo, dai, frate, che beve. Ogni volta che tratto questo gatto del coso, mi sempre mal di testa mi fa. Capito, Lu? Ma ho capito, cosa hai detto? Non riesco a capire perché ogni volta che uso il lineare, quella valvola mi va da mal di capo. È una bomba, freddo, a me da canto faccio la volta di chi calda, cioè se non è stazionario non scalda, manco un balle balle. Oh, tu sei? Che poi mi dicevo, vuoi lavorare, cucina per la rigua, da basta da mangiare, stai diventando un porco, stai diventando, vai a cucciare. Si prova a fare un giambo, va, appena fa banda pure a corare e due. Cappa cappa. E allora no. Ora. Non è molto caldo, va. Luca. Sono in lutto. Gappa, vedi, scaldando sta piano piano. Ora! Che bisogna trattarlo, sennò è un casino. Ma era il tuo orologio scritto, sì? Già l'ho visto, già. Gappa. Taggio, le balle in terra, vi grido, le balle in terra. E con capirai. Ehi, cazzo, tu, cocco, rommi. Ma, oltre a me. Cosa metti tu? Ah, non lo so. Ora. Vamos. Sai di che se mi rompi il culo non te lo dico, altro non nascondo. No, non hai più problema di ricorsi. Ah, ho capito ora. Lascia la cabisi che è meglio, va. Ora. E casi, già sei bocco. Io la sapevi anche. Ti ho detto che non è male in terra. Ui, lascia perdere, va. Non mi interessa. La cazzive si tocca a casa sua. Se vediamo le tue a casa mia. Fa un culo, cazzo. Già ribassa, lascia perdere. Ora. Picchi negativi, ciò, no? Prova. Siamo così muovi, già con lo scala, perché negativi voi. Kappa, lo facciamo scaldare un po'. Non voglio che rimanga troppo fermo. Allora, non mi prendi la potenza. Sì, che già sta andando, va. Più scalda più va. Vai che sta andando. Ora. Scommetti, Luca, senza PL mi senti lo stesso. Non lo vado a cacchi, è un casino con il UBL, è un capo grosso qua, è un casino. Già lo so, già. Kappa, ho altro bacio di passaggi, vedendo, è a posto, non è... E lo pongo la base, lo pongo a chissà cosa, buon padruppo. Lo so che fa, già lo so. Kappa, in maniera tanto bisogna trattarli, queste cose, se no si guastano. Bella calda è adesso, ma non satura, va bene la modulazione. Benissimo, tu, perfetta. Questo è a valvola. Ora, ora. Minchia, cazzo, sta dando un bel. La mazza di nefaria. Io lo piso BL, vedo un cazzo, va. Via. Beh, l'ultimo passaggio è... E via, però va ne c'è tutto. Aspetta due secondi, Anto, sto contando le vostre monete un attimo. Appa, dai, io attacco l'altro, che basta così per adesso. Mi sono andato a fare di ex. Ah, cosa tra te e morastro? Finito. Basta così, l'abbiamo fatto così, finito. E se no c'è cosa, Giulia? Attenzione 10, dappa! È bello, contatti l'ordine! Quasi finito! Dappa, dappa, dai! Che ne muove andiamo, che è eia, e bene! E allora? Cazzo, è giocato Guido! Mamma mia! Pensiamo che hanno aumentato il sorriso, se prima a testi! Beh, se non è buono... Non aumenta, quello è poco ma sicuro, Ora. Ehi, vabbè, ci va con 10 euro a 1000. Porta di qua. Ehi, cosa te ne vuoi? Ehi, cosa me ne porto? Domani giocando da Ferrari, si accompagna a me impianto dopo. Ehi, con 1000 euro. Ehi, me ne avanzano anche. Piccato che sono un dentista, cazzo, piccato. Se rubi già dentro impianto. No, vabbè, adesso più là mi voglio per comprare due mecchi. Toccano i vostri forte. Costano un po' meno delle FBT, ma toccano un bel. Le casse? Scappa. E perché le tue non vanno bene? Ma io sto cercando qualcosa di potente. Sto piano piano, non ne ho pressa. Sì che vanno bene. Sono dicendo che è cosa di bottente, compreso. Ma tu, ma lo vedi dal televisore con la sua antenna? Come? Ho detto, lo vedi il televisore con la sua antenna che hai piazzato? No, quella non la uso. Hai messo la TV allora lì? Cappa. No, lì no, quella uso, cioè capita, uso per... La vedo con questa grande, con quella lì non la fa vedere. Un solo cioè il cubo, non si vede nulla. Non c'è ricezione, no. Ah, basta punirti la piccola, una di disantenna di 10 euro. Sacco di sotto, un'altra bola dell'antenna. E si è a posto. Cappa, mi ha fatto tempo bello, controllo il capo, la punimmo. Vaffanculo. Ciao, sei piazzare? Sì. Cosa avevo? Allora, non ci vuole niente. Però volta di molti non sono piazzare, capito? Cosa cazzo devo piazzare un'antenna? Cosa devo piazzare un'antenna di televisione? Ah tu, è un buon un tempo, io ho anche lo strumento. Ma appunto con lo strumento, a volte che puntata la blocco e faccio i collegamenti. Ma non è problema già. Devo individuare il capo, devo andare qua nel palazzo a vedere il capo nostro che mi passa a casa. Poi dopo già la piazza, cioè dopo ne affaro e vediamo un po'. Sono quasi dell'aereo, ma di vino. Magari compra i pezzi e la mettiamo nuova. Cazzo, ma niente, dici piazza l'antenna che mi è successo quando l'anno scorso o l'anno scorso è estate, mi diceva Marito, sì, mi ha scoperto l'antenna però non vedo niente. Ma si piazza, c'è tutta la sua piazza che mi ha detto, sono andato io con lo strumento e l'ho puntata, ma si vede nel canale, vedi che si vede. Non so, ma magari all'incirca puntiamo un 3 euro e dovrebbe andare bene. Penso che mi sia, non penso che voglia la laurea, no? No, abbiamo la laurea, però come dico ti chiamo la mamma, se la piazza niente, poi non le saremo a cubiazzare. È successo parecchie volte. E quando la piazza è una piazza opera d'arte, ci metto più tempo, tutta fascettata bene, nastrata bene, tutta la borsa un bel travaglio. Bello, bello, bello pulito, ordinato, capi tutti uguali, messi bene. Ci spendo qualche euro in più, non frega niente, non guardo quella spesa lì di fascette e nastrisolante. E forse un bel travaglio. Pure io la piazza così, io le metto queste cose, ma io sono da buonnici tutto, cazzo, se non vado un travaglio non vai mai, col vento mi sciacca tutto canto. Lo so, che ne so, ne devo per 5. Pure io ho il vizio di fascettare, di mettere tutte le fascette, tutti i canti rigorosi compresi. Beh, se la piazza la piazzi, beh, altrimenti non la piazzi. Sì, ah, bello. Io ho giubiato due Giulia. Che suoni. Che bello piazzato. Questa volta mi ha dato una mattana. Praticamente cosa è successo? Quella connettore, connettore, no? Quel connettore piccolino, quella piccale. L'ho stretto troppo e come l'ho stretto troppo con la pinza, per essere più sicuro, gli ho fatto toccare più e meno assieme. Cazzo ce ne di gabbo, si vede in cucina e non si vede in camera. Boh, tu è strano. Scendi di gabbo, nuda, scendo di testa. Ne sono andato alla fine da due soldi, mi. Se fosse stata davanti all'asilo non l'abbiamo fatto un problema. Cazzo, poi dici tu, boh, strano, boh, mi sono andato a posto, tutto qua. Cazzo, dici tu, beh, adesso apro l'antenna a vedere. Infatti apro la scatoletta, no, dell'antenna dei Mediaset, quelle a pannello erano. Cazzo, e c'era più e meno toccando assieme, per quello da una parte si vedeva, dall'altra parte no. Comunque lo ci stava bene, ci bivato, un bombo. Purtroppo succedono queste cose, non devono succedere, però sono capitato. Ma quelle che stanno vendendo adesso, buone sono. Quelle chissà che cosa è, due soldi non fa venire, la camo tanto quelle antenne lì, meno hai, meno, cioè meno spendi, meno hai, più spendi più hai, capito? Anche vuole dirmi come funzionano, va, è cazzo di durani, ma poi ci dibatti del zero e dibatti 5 anni cappa, antenna buona per appoggiare della radio, antenna buona con il miscelatore tutto. Che è buona bucaria, gà. Ma come usare una tenni buone, Antu? Ma faccio il gioco, ecco, non è certo. Ma faccio il gioco. Sei stato assoldato da un funzionario del Dipartimento della Difesa. Che faccio? Lasciami, lasciami un attimo. Sì, Antu. Ma come usare una tenni buona? Tenni buona ce li ha quello di Pradanietta. No. C'ha le fa carro. Cappa. Ma a me la sempre buone. Oh, vabbè, quello che costruivano loro erano, duravano una vita. Ma tu sei stato un attimino a tratti. Tratti? Adesso? Andiamo. Adesso sì, lo stavi dicendo? Che ho schiacciato bene. Ho detto che quelle che costruiva Fusaro, quelle che c'erano al laboratorio giù, quelle duravano una vita. Ehi, vabbè, il materiale... Cioè... Alluminio buono, capito? Alluminio buono e ti dura. Poi se metto un alluminio vuoto, cazzo, è normale che ti dura poco. E vabbè. Anche quelle, qualcuno ha voluto risparmiare, gli ho messo quelle di Bricoman. A qualcuno gli ho messo quelle di Fusaro. Dipende da uno quanto vuole spendere, capito? Non è che uno vuoi più di poco, vuoi pretendere. Adesso ti faccio un esempio, c'è quella della Fraccarro, che costa, mi sai, sugli 80 euro. Quella della... di che marca? Della Fraccarro. Ma... i righi sono buoni, sono le migliori in commercio, tu. Poi sentite lì che sono le migliori in commercio. Ma sai che c'era anche Bricome quella marca? Sì, Bricome è andata nella Fraccarro, nonna. Forse quella a 10 euro, ma non lo sa. Poi se non è per te, ti puoi prendere quella, Il cavo passa dentro, attaccata alla morsettiera, mi sa un po' di va, non è semplice, semplice, comunque già ce la fa a piazzarla. Ti metto la di quella tu e non vedi, vabbè, vedi la Rai, Mediaset, ma guarda, certi canali non li vedi. Ho visto sul tetto, ci sono dei cosi staccati. Qua non vai a capire se è la nostra. E scendi male, Antu. Luca! E come mai ti sei spostato? Ma non dai, sono con voce che c'è un cazzo di dato. Adesso dovrebbe andare bene. Che apparecchio stai usando? È l'87. Perché c'hai i canali, tocchi il tasto e ti sposti il canale? No, deve essere questo cavolo di coso, come si chiama? Questo affare che non funziona tanto bene. Dove cambi il canale? Tu che sei Google Tattoo. Guarda, 2009, non so se te l'ho detto, ho cambiato la mascherina, ti ho fatto vedere, mi sa, comunque nuovo è uscito. Sì, no, te l'ho fatto vedere già. Giappa, mi ha fatto vedere, sì. Comunque sono contento, guarda da quando sto parlando, ed è freddo, ma ti immaginetti? Perfetto, perfetto, sei nuovo è uscito tanto. L'unica cosa che mi manca, la scatola, ce l'ha Gianni, ma serve a lui. Ce l'ha lui. Anche il 2009. E vabbè, dai, non c'è problema. Lo lasciamo così. Ecco qua. Lascia vedere. Aspetta un attimo, immagino, non lo vedo. Grazie. Comunque già. No, ho detto, questo amplificatorino, cazzo, funziona veramente bene. Ce l'ho già da un po'. Con la portante aperta non scalda nulla. Poco. C'è tanto che porta a dea, dai. Eia, ok. Non ti preoccupare. Piovendo, Sandro, piovendo. E quindi Lu. Adesso ho rotto le palle il cambio già. Sonno. Che appa? Chi c'è da grandi casini, chi si 747? Quando vuoi stazionare? Ma che buru baracchino ti vuoi stazionare? Appa. Fra un po' di tempo sto pensando una cosa. O mi metto qualche altra antenna o mi compro la Venom. Cosa Antu, che stavo mandando un messaggio? Posso prendere la Venom? Che a dire Antu? Ma c'è la manto va su eBay. Ma la manto va 1, la manto va 5, 310 euro. Cazzo! Nuova? Sì. Ah, è ammazzarti, preferisco prendere 60 euro, mi prendo la Venom e funziona lo stesso. Vabbè, la resa è diversa, eh. Non puoi mettere una Venom con la manto, ma no, Antu, dai, su. E Lucia pompa ya. Ma no, come una matto qua. Cazzo la dura di Alicocchi giochi, oltre chi so. Fai idee. Sicuramente il dolore ti ho messo a posto con le copertine. Cazzo, boh. Mi accusi di qualcosa. Ma sai che che non serve, eh? Però la Mantova è più cosa, dai, più pompa di più. Poi i radiali sono più lunghi, è più alta. Ma che c'è la 5 ottavi quella? Per il momento vabbè, c'ho questa qua che è sistemata, poi domani vado a comprare anch'io, eh. Poi la tela leggera anche, poi mettere un palo più alto. E già siamo in vara, capito? E così, cavaghera. Sta più già di merda, guarda. Ah, quello che ho io è alto 4 metri. Scommetti che li metto a 4 metri, non la metto perché non mi fido. Scommetti che se la pongo a 3 metri, chissà chi è già a volte. Ma poi lo metto da tu io. Eia. E boh, non lo so. Tu la vuoi scommettere per il punto dove la voglio mettere io? La pongo a 3 metri, li metto un po' di palo dentro, giusto per tenere di più, capito? Scommetti che picchia forte. Non lo so, prova, non lo so. No, lo so, io purtroppo sono in basso qua, sono uguale. Sarebbe anche un palazzo che c'ho di fronte, anche lì un metro di palo, mi palo a volo due metri, ehi, a voglia. Pompava la grande, ma va bene così, non è che posso pretendere, va bene così. Finché va, poi. Ma visto come te ne sono usciti subito dal radiale, che hanno travaglio ha fatto bene. Lo so. Ma quella ti dura altri anni, io curia. Ciappa. Adesso vediamo, dai. Secondo me va, tolgo il ghisugato di roccio di cobolo e mi metto questa Venom. Capito? La ordino e faccio arrivare la piazzemo. Ehi, sto mandando un messaggio a un amico, eh. Così tibio. Lui ragazzi. Vabbè, lui. Che ci vuoi fare, purtroppo? Un casino. Ecco qua. È un casino, tu, un casino, ragazzi. Un casino. Ecco qua. E che ci vuoi fare? Sta così anche. Cappa. Oia. E ci hanno drummi, va. Catena di Blugana. Ehi, andava, dai, mi guardo un po' di TV, tanto. Ci sentiamo domani, ciao, buonanotte, saluta Sara, ciao. Ciao, buonanotte, ciao.